Incredibile! Votre minutes où il allume une grosse cigare, start to smoke, continuando i svariati des rythmes. Der Alporn, mi viene un big pipe in quella possibile da fumer. Der Rauch, so out of the bell. Ensuite comincia a soulever de Alporn, Zenkrek, con la bicotta fricca di un nebo. Red light illumina di stürze, qui se transforme in un pizzo che guarda da spubblico. Cet oiseau erzelt strange stories, avec des tranchants, a per quen disbert muore. La lumière contra se poi avi, allora chi seis, esac, andresce, il dit.